Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Questa puntata di Mebius, buonasera e benvenuti, si aprirà con il ghiaccio. Ma prima ascoltiamo i titoli di questa puntata. Gli italiani ebbero un ruolo importante sul ripopolamento dell'Europa nel periodo post-glaciale. È quanto emerge dalla ricerca di alcuni genetisti dell'Università di Pavia. Dopo il successo di Roma, sbarca a Milano la mostra dedicata a Charles Darwin. Ci starà fino all'autunno e poi raggiungerà Bari. Serendipity, ovvero le scoperte scientifiche avvenute per caso. Si può partire da Cristoforo Colombo e arrivare alla monogamia degli insetti. Il premio Lagrange 2009 va a chi studia e racconta la complessità, l'italiano Giorgio Parisi e il giornalista americano Mark Buchanan. Storia della vita sulla Terra. È un libro che racconta di dinosauri, ma anche di elefanti nani in Sardegna e altri strani mammiferi. 20.000 anni fa faceva molto freddo in Europa. Non fu facile la vita per le popolazioni sparse che abitavano il nostro continente. Poi il freddo finì. E i superstiti? Sentite Chiara Albicocco che ci racconta come andò la fuga dal ghiaccio e il recupero poi dei territori abbandonati. A pochi giorni dalle elezioni europee, dove l'Italia riveste un ruolo rilevante, ecco che esce un articolo in letteratura scientifica che conferisce agli italiani un'altra posizione importante, sempre nel contesto europeo, però post-glaciale. Sì, mi sto riferendo in realtà a circa 10.000 anni fa. Le questioni politiche attuali erano assai lontane, ma gli europei attraversarono un periodo di glaciazione intenso, che mise a dura prova la sopravvivenza della popolazione, che cercò rifugio nelle aree meridionali del continente. Durante l'ultimo picco glaciale, che risale a circa 21.000 anni fa, le popolazioni rimasero isolate nei territori, con le condizioni climatiche più vivibili, più sostenibili. E in questa situazione vi fu un vero e proprio sconvolgimento genetico degli europei paleolitici. E qui arriva lo studio di alcuni genetisti dell'Università di Pavia, che hanno studiato il ruolo degli italiani nel ripopolamento, avvenuto proprio dopo l'era glaciale. E qui con noi questa sera c'è Antonio Torroni, docente del Dipartimento di Genetica e Microbiologia dell'Università di Pavia, che ha diretto tutti i lavori. Buonasera Torroni. Buonasera. Allora, prima di capire l'importanza della vostra importante scoperta, inizierei a far comprendere agli ascoltatori quale fosse il contesto, cioè la situazione europea, sia a livello climatico che a livello di popolazione, dopo un periodo glaciale così lungo. E dunque, i primi europei moderni, i nostri antenati, diciamo, arrivarono dal Medio Oriente in Europa circa 45.000 anni fa. Trovarono in Europa i neandertaliani, che ora noi sappiamo dal punto di vista genetico è dimostrato che non hanno contribuito geneticamente a noi europei moderni, era un ramo collaterale. Quindi questi uomini moderni che venivano dal Medio Oriente si espandono in Europa e colonizzano l'intera Europa. Come ha detto lei, già accennato, circa 20.000 anni dopo, intorno a 20.000 anni fa, c'è questo drastico cambiamento delle condizioni climatiche per cui le popolazioni europee che vivono in Europa centrale e settentrionale o si estinguono o migrano verso sud, in queste aree di rifugio meridionali, in cui le condizioni climatiche erano ancora compatibili con la vita umana. E queste aree di rifugio erano principalmente in Iberia, in Italia, nei Balcani e in Ucraina, che non erano coperte da ghiacci, che non erano tundra, sotto la linea degli alberi, e queste erano aree di rifugio non solo per l'uomo, ma per tantissime specie animali e vegetali. Intorno a 15.000 anni fa inizia un processo di miglioramento delle condizioni climatiche, quindi come può immaginare sia le popolazioni animali che quelle umane che quelle vegetali cominciano a espandersi verso nord perché le condizioni lo permettono e quindi anche gli uomini. Finora il gruppo di Pavia, ma anche molti altri gruppi nel mondo, hanno dimostrato che effettivamente l'uomo si era espanso da alcune di queste aree di rifugio, in particolare dall'Iberia o dai Balcani o dall'Ucraina, ripopolando il centro e il nord Europa. Un quesito che ci si poneva era: finora nessuno ha mai dimostrato che esistesse un contributo dall'Italia, ecco, da rifugio qui italiano nel ripopolamento del continente europeo. E qui veniamo alla vostra scoperta. Avete scoperto che anche gli italiani... Questo è dato nuovo, sì, che appunto compare su questa rivista di genetica umana americana, appunto, e quindi il titolo è proprio questo, un eco distante dell'epipaleolitico in Italia, in cui individuiamo, scopriamo una linea mitocondriale relativamente rara, di cui però seguiamo le tracce in Europa, appunto dimostriamo che parte dall'Italia intorno a 10.000 anni fa, espandendosi verso nord, però non attraverso le Alpi che costituivano la barriera, una barriera difficilmente una barriera fisica proprio. È una barriera fisica perché teniamo conto, quando le condizioni climatiche cominciano a migliorare, le Alpi comunque rimangono ghiacciate, quindi gli italiani di 10.000 anni fa o di 12.000 anni fa, a differenza delle altre popolazioni europee, hanno difficoltà a riespandersi, si riespandono poco, principalmente lungo la costa settentrionale dell'Adriatico e manco un po', di più ancora lungo la costa settentrionale del Tirreno, quindi vanno, colonizzano inizialmente il sud della Francia e poi si spingono verso occidente. Ma avete scoperto anche una particolarità sugli italiani stessi, giusto? Sì, perché poi vediamo che appunto da questo gruppo di, diciamo, di paleolitici italiani che prima colonizzano il sud della Francia, poi parte un sottoinsieme che è quello che poi contribuisce al popolamento della Sardegna. Quindi in questo studio, infatti nel titolo, c'è appunto sull'origine dei primi sardi. Infatti attualmente nei sardi moderni noi vediamo che circa il 4% appartengono a questa linea mitocondriale, il valore più alto che si osserva in Europa. E appunto ricostruendo le tappe molecolari, appunto noi studiamo le mutazioni su questa molecola di DNA mitocondriale che è trasmesso per via materna, dimostriamo che gli antenati più prossimi di questi sardi moderni erano popolazioni che venivano nel sud della Francia, che a loro volta venivano dall'Italia. E voi per questi risultati avete avuto anche una prova archeologica in più? Sì, noi siamo genetisti, quindi analizziamo molecole, poi di DNA. Noi cerchiamo ovviamente di ricollegare i nostri dati, le nostre datazioni che facciamo sulle molecole di DNA con dati di tipo archeologico, di tipo culturale, linguistico. Per esempio nel caso della Sardegna proponiamo in questo lavoro, oppure suggeriamo, cioè ovviamente non abbiamo la certezza, che questo arrivo, questo scambio di materiale genetico dal sud della Francia e la Sardegna fosse collegata col commercio dell'ossidiana, che era un commercio molto importante del Neolitico, e questo si basa sul fatto che nei siti archeologici neolitici della Francia meridionale si trova quasi tutta ossidiana proveniente dalla Sardegna, in particolare dal Monte Arci. Ecco, l'ossidiana, diciamolo, è una pietra magmatica molto utilizzata in quel periodo, soprattutto per le strumentazioni e per gli utensili. Certo, era chiamato il cosiddetto oro nero del Neolitico, appunto era una pietra di grande importanza per le sue caratteristiche nella produzione di oggetti e di armi, eccetera. E infine ci fa capire qual è l'importanza vera di questa vostra scoperta per quello che è la comprensione dell'evoluzione dell'uomo e in particolare dell'uomo europeo? Certo, dunque ovviamente questi sono tutti tudi che uno può considerare relativamente piccoli, sono piccoli pezzi di un puzzle che uno lentamente ricostruisce, in cui c'è un contributo della genetica e di altre discipline. Per quanto riguarda l'origine degli europei in generale, c'è stata in particolare in passato una notevole discussione su quale fosse il contributo genetico dei primi uomini moderni arrivati in Europa, quelli che ho detto all'inizio sono arrivati circa 46.000 anni fa, rispetto ai gruppi umani che sono arrivati in Europa più tardi, in particolare dei gruppi umani che sono arrivati con l'espansione dell'agricoltura che è nata in Medio Oriente intorno a 10.000 anni fa. Quindi la questione fondamentale è: gli europei moderni derivano in gran parte, sono discendenti dal punto di vista genetico, dei primi arrivati in Europa 46.000 anni fa, oppure di quelli che sono arrivati più tardi, in particolare quelli che hanno portato l'agricoltura 10.000 anni fa? Ecco, in questo contesto, lentamente, con questi piccoli pezzetti, tasselli del puzzle, viene fuori che in realtà gran parte del pool genico, del patrimonio genetico degli europei moderni in generale, deriva da popolazioni che si erano rifugiate nei rifugi glaciali, che a loro volta discendevano da quelli che erano arrivati in Europa 46.000 anni fa. Quindi noi europei, in linea di massima, siamo discendenti dei paleolitici, dei primi arrivati in Europa. Significa che gli europei hanno cominciato a divergere almeno 46.000 anni fa e non 10.000 anni fa. Bene, ora c'è tutto più chiaro. Grazie professor Toroni, io le auguro una buona serata. Grazie a voi. La scorsa settimana si è tenuto a Milano una 3 giorni sotto l'egida di questo marchio Excite, adesso vi diremo fra pochissimo di che si tratta, e abbiamo ospite questa sera Matteo Merzagora. Ciao Matteo. Ciao Federico. Ci diamo del tu perché siamo colleghi, insomma ogni tanto appari nella nostra trasmissione come collaboratore saltuario, in questo caso dentro Excite, adesso ci spiegherai che cos'è, tu hai anche avuto un ruolo nella gestione di alcune parti di questo appuntamento. Allora Matteo, intanto dici subito che cos'è Excite. Excite è la rete dei musei e dei dei centri della scienza europei, quindi musei scientifici e centri interattivi, science center, che ogni anno si ritrovano in una conferenza per fare un po' il punto sullo stato dell'arte di questo mondo, dalle questioni relative al management, al business model di questi musei, a questioni relative all'educazione, fino a cose anche più moderne, diciamo, su come rinnovare i musei per rispondere al meglio a queste necessità di contatto fra scienze e società di cui spesso si parla. E infatti di questo credo parleremo fra pochissimo. Ricordo solo che Excite ormai è una struttura che riesce a raccogliere un migliaio di operatori che lavorano in questo campo in tutta Europa, quindi è un po' la struttura di riferimento, insomma, per ragionare su queste cose. Sì, assolutamente, e si potrebbe quasi dire esiste anche un'associazione mondiale che però paradossalmente è più piccola ormai dell'associazione europea, quindi è una dei punti di riferimento europea. Hai citato 1000 partecipanti, oltre 400 musei membri. Senti, allora, che cos'è che è venuto fuori, nel senso di che cosa si prospetta per le prossime, come dire, configurazioni dei musei e dell'organizzazione di eventi nel campo scientifico? Questa è la domanda a cui ciascuno dei 1000 partecipanti vorrebbe avere la risposta, evidentemente. Naturalmente ci sono molte piste, i musei non abbandonano assolutamente una pista didattica, un servizio alle scuole che in alcuni paesi è più strettamente legata col mondo della scuola, in altri paesi è più diciamo a lato. Una cosa che viene fuori è una sorta di differenziazione, di capacità di adattarsi di più alle esigenze locali dei musei, vale a dire il modello probabilmente del grande museo nazionale che assolve a tutti i possibili ruoli che un museo della scienza e della tecnica può assolvere, probabilmente continuerà a esistere, ma bisogna pensare oltre, affiancato dalla capacità dei musei di fare una sorta di ecologia dei servizi, cioè saper trovare le nicchie giuste, saper trovare un ruolo in questa molteplicità di contatti che i musei hanno. Ecco, la sfida dei musei di oggi è sapere interpretare al meglio questa rete di relazioni. Quindi possiamo immaginare che per esempio un museo collocato in un'area fortemente agricola potrebbe dedicarsi a ciò che è scienze e tecnologie in questo campo, un museo che magari è in una zona per esempio ex industriale potrebbe dedicarsi a quelle che furono le tecnologie della grande industria della prima metà del secolo scorso, per esempio. Non solo, ma un museo può anche avere, e come ad esempio il caso di Napoli, per non fare esempi astratti, non solo un ruolo di ricordare quello che era l'industria, ma anche di sapere essere al passo con la situazione attuale, sì. Per cui un'area in cui l'assenza di un'industria ha generato dei problemi sociali, disoccupazione o cose di un questo vuoto. Tipo, e quel museo può essere il motore per costruire una riconversione, incubatori di imprese, riconversione, eccetera. Excite si è tenuto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, che mi pare con l'organizzazione di questo evento abbia assunto un ruolo significativo a livello europeo, no? Diciamo che hanno veramente dato il massimo, bisogna fare i complimenti a tutto lo staff, c'erano oltre 100 persone del museo, tutti in maglietta gialla ad accogliere i delegati europei, dal direttore all'animatore al custode. Sì, diciamo che il Museo della Scienza e della Tecnologia in questo momento ha sancito il proprio ingresso a pieno titolo fra i grandi musei europei, più l'altra cosa che va assolutamente sottolineata è diciamo l'ascesa dei piccoli musei, un po' nel senso di quello che dicevamo prima. Anche in Italia musei di dimensioni medio-piccole stanno cominciando a prendere piede, a diventare anche importanti e attivi a livello europeo. Grazie Matteo. Grazie a voi. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Pronte, perché vince chi chiama per primo. Siamo al nostro gioco, il quiz. Questo è l'interrogativo. Una tecnologia molto diffusa è nata del tutto casualmente da una scoperta scientifica. Di quale scoperta fra le tre seguenti si tratta? Prima possibile risposta. Il forno a microonde durante esperimenti su un radar. Ci scriverete forno. Seconda possibilità. I più recenti depilatori per le gambe, nati progettando dei rasoi elettrici per uso chirurgico in grado di estirpare alla radice i peli nel caso di interventi alla testa. Ci scriverete peli. terza e ultima possibilità, gli occhiali a lenti polarizzate nati dalle creme riflettenti usate dagli esploratori polari per proteggersi dal riflesso abbagliante dei ghiacci. Ci scriverete lenti dove? Beh, con il solito SMS al 349-238-6666. Che libro si vince? Si vincono i taccuini di Charles Darwin, editi da La Terza e curati da Telmo Pievani. E della mostra di Darwin stiamo per parlare fra pochissimo. In collaborazione con IBS.it. La bella mostra su Charles Darwin, di cui abbiamo già parlato per la sua prima apparizione a Roma a fine 2008. Adesso è arrivata a Milano e poi raggiungerà Bari. Chiara Albicocco ha intervistato lì, negli spazi della mostra, Chiara Ceci, una delle curatrici. Sembra di essere in Amazzonia, scimmie, pappagalli, versi di uccello. Ecco, in realtà invece ci troviamo alla Rotonda della Besana a Milano, alla mostra di Darwin 1809-2009, la mostra che è stata allestita per celebrare i 200 anni dalla nascita del grande naturalista. Ecco, io mi trovo qui con la curatrice, Chiara Ceci, con la curatrice della mostra. Ciao Chiara. Ciao. Questa è una mostra che già molti, soprattutto i romani, hanno avuto già la fortuna di visitare perché nei mesi scorsi è stata ospitata a Roma, ora è arrivata a Milano e presto, in autunno, sarà anche a Bari. Ha fatto il viaggio anche della nostra penisola, ma ora noi partiamo per questo viaggio alla scoperta di quelle che sono state le esperienze che hanno portato alla formulazione delle teorie evolutive di Darwin. Allora, la mostra è effettivamente un viaggio perché parte proprio con la biografia di Darwin. Abbiamo voluto ricostruire la sua vita facendo vedere come fin da quando era un giovane appassionato naturalista che cacciava coleotteri e che il padre diceva essere la futura rovina della famiglia perché pensava soltanto a quello invece di studiare medicina, fino a che poi si imbarca, una volta laureato a Cambridge, sul Beagle come naturalista di bordo per scoprire la natura dei tropici. Dovevano stare via 2 anni, invece stanno via 5, e siccome lui soffriva il mal di mare è stato un lungo viaggio per lui, che però gli ha permesso, da appassionato naturalista e geologo soprattutto, di scoprire una serie di novità per la scienza. Scusa Chiara, ti interrompo perché siamo disturbati da alcuni rumori. Che rumori sono quelli che accompagnano il visitatore? Ci troviamo in Amazzonia in questo momento, l'Amazzonia che Darwin amò particolarmente, fu colpito dal caos di delizie che gli causava. Lui era rimasto piuttosto sconcertato perché quando era arrivato in Sud America era colpito da una farfalla, da un insetto, però subito appena spostava lo sguardo vedeva un'altra cosa colorata, un fiore, un frutto, e quindi provava questo caos nella sua mente. E siamo appunto in Amazzonia, che è la prima delle tappe del viaggio che abbiamo ricostruito, dove già Darwin poté osservare alcuni animali e alcuni fossili come il bradipo, il suo cugino antenato, il Megatherium, che iniziarono a dargli le prime idee su quella che è la dimensione temporale della teoria dell'evoluzione, che poi negli anni a seguire andrà a elaborare. Ci sono poi altre tappe nella mostra ricostruite per il viaggio, e sono la prima, sempre in Sud America, nella Pampa, in cui il visitatore ha modo di vedere un gliptodonte, che è questo armadillo preistorico gigante, e anche un armadillo attuale, un armadillo vivo, altre specie di armadilli, e fare con Darwin le stesse riflessioni, cioè sempre porsi la domanda sull'origine delle specie, come mai ci sono specie così simili, alcune estinte, alcune ancora attuali. E poi sempre in Sud America Darwin ha la possibilità di aggiungere l'altra dimensione che poi porterà nella teoria dell'evoluzione, che è la dimensione geografica, spaziale, quando osserva i due Nandù, il Nandù maggiore e il Nandù minore, e si chiede come mai esistano due specie praticamente nello stesso areale. Lui dice che si inosculano, cioè si toccano, si baciano, ma non si mischiano. Qui siamo nella parte, diciamo, che riproduce il viaggio. E poi inizia veramente la parte più importante dal punto di vista delle teorie, perché quando torna comincia ad elaborare, a capire qualcosa. Sì, dopo le Galapagos infatti passiamo a un viaggio che non è più fisico, ma è un viaggio mentale dentro il pensiero di Darwin. Quando torna infatti a Londra nel 1836 inizia a elaborare la sua teoria, scrivendo quelli che sono chiamati i taccuini della trasmutazione, in cui lui nel privato, nel suo privato, elabora le prime idee, scrive tutto quello che gli passa in mente. Quindi pubblicamente è uno scienziato conosciuto che ha raccolto un sacco di specie nuove, è segretario della la società geologica, va alle conferenze. Nel privato invece elabora queste sue teorie, e nel privato soprattutto si sposa, perché nel 1838 qui si aprono una serie di aneddoti divertenti. Sì, perché nel 38 inizia a elaborare l'idea di volersi sposare. Allora lui, scientifico come sempre, prende un pezzo di carta, lo divide a metà e da una parte scrive sposarsi e dall'altra parte non sposarsi. Questo è il problema, quindi pro e contro del matrimonio. Salta fuori che avere una moglie gli può portare dei figli, compagnia, compagna in vecchiaia, nella malattia, però è anche una perdita di tempo, un sacco di soldi. Ha fatto proprio un'analisi comparata. E da buon scienziato però arriva anche ad una conclusione. Certo, perché si rende conto che una moglie su un divano è un bell'oggetto ed è comunque una compagna sempre meglio di un cane, e quindi alla fine conclude sposarsi proprio alla fine del foglio. Infatti alla fine del 38 si fidanza con sua cugina di primo grado, Emma Wedgwood, che è di qualche mese più grande di lui, una donna molto interessante, molto anche culturalmente preparata. Si sposano nel 39 e avranno poi 10 figli. Vivono a Londra inizialmente per i primi 3 anni, in cui appunto Darwin inizia a elaborare, a far prendere forma la sua teoria, e poi nel 42 si trasferiscono a sud di Londra, nel Kent, in campagna, che entrambi amavano, nella tranquillità della campagna, dove cresceranno appunto tutti i loro figli. E qui, se sei d'accordo, ci trasferiamo anche noi in quella sezione della mostra, perché in realtà siete stati bravissimi, avete ricostruito la foresta, la sandwalk come la chiama lui, dove lui va a riflettere e a risolvere i problemi. Dunque, Chiara, qui siamo in un ambiente veramente suggestivo. Ti pregherei di descriverlo per gli ascoltatori per quanto riusciamo. Riusciamo a descriverlo in parte con i suoni, ma a livello visivo è veramente suggestivo. Sì, ci troviamo in quello che è la ricostruzione del sandwalk. Nella sua casa di campagna, Down, Darwin fece costruire questo sentiero di sabbia dove egli amava andare a passeggiare e a riflettere. Abbiamo ricostruito quindi, a livello molto scenografico, con l'architetto Marisa Coppiano, la passeggiata che lui faceva quotidianamente coi figli, col cane Polly, con la moglie. Possiamo camminare su un pavimento di vetro sotto il quale vediamo proprio i sassi che ci ricordano quella sua camminata, e tutto attorno a noi è la foresta che consigliava Darwin nei suoi pensieri. Ogni giro che lui faceva spostava un ciotolino per ricordarsi quanti giri aveva fatto. Infatti più giri faceva, più difficile era il problema su cui stava riflettendo. Quindi un sandwalk era un problema abbastanza facile, 2 sandwalk anche. Ci sono problemi che dopo n sandwalk ancora non sono stati risolti. Ed è qui che lui comincia e conclude tutta la parte sulla teoria, prima con l'origine della specie e poi con l'origine dell'uomo. Sì, il sandwalk è usato anche a livello proprio museografico per introdurre il visitatore in una nuova parte della mostra. Finisce la parte più biografica e inizia la parte sull'evoluzione oggi, perché nel 2009, 150 anni dopo la pubblicazione dell'origine delle specie, abbiamo una serie di strumenti. Abbiamo scoperto il DNA, conosciamo la genetica, la biologia evolutiva dello sviluppo, possiamo datare le rocce, sappiamo quanto è vecchia la Terra, molto meglio di quanto si sapesse all'epoca di Darwin, e tutto questo ci permette oggi di avere una biologia evolutiva che al suo cuore è ancora la teoria di Darwin con la selezione naturale, ma è arricchita da 150 anni di scoperte, e nel resto della mostra vogliamo proprio scoprire quello che è oggi la biologia evolutiva. Va bene, Chiara, grazie e veramente complimenti. Grazie. In questa mostra su Darwin c'è un pezzo, non è corretto dire un pezzo perché è fatto veramente da tanti altri pezzi, ma insomma un pezzo espositivo molto importante è lo studiolo di Darwin, di Charles Darwin. Non è quello originale, ma praticamente, come sentirete fra poco, è quasi la stessa cosa. Per parlare di questo studiolo ho in linea Telmo Piovani. Buonasera Piovani. Buonasera a voi. Filosofo della scienza e uno dei curatori di questa mostra. Allora, che cos'è questo studio? È esattamente la riproduzione dello studio in cui lavorava Charles Darwin a casa in Inghilterra. Sì, è una ricostruzione molto dettagliata, frutto di una ricerca che è durata direi più di un anno, condotta dallo studio Cucchi di Torino, che sono gli artigiani bravissimi, che hanno innanzitutto indagato le caratteristiche dello studio di Darwin, quindi hanno usato foto per capire bene i colori e l'ambientazione. E poi hanno ricostruito analiticamente gran parte dello studio di Darwin a Down House, dove lui ha lavorato per 40 anni, quindi è il luogo cruciale in cui lui ha scritto l'origine delle specie, l'origine dell'uomo, le opere più importanti della sua vita. Mm-hmm. Lo studio contiene oggetti che non sono suoi originali, perché quelli non possono essere portati via naturalmente, ma che sono d'epoca, quindi sono esattamente gli oggetti che si usavano in Inghilterra in quegli anni, il microscopio, dal microscopio alla pistola, alla pistola da caccia, agli oggetti che lui usava, agli strumenti che usava per sezionare piante e animali. Cioè, oggetti di quell'epoca ritrovati, insomma. Ritrovati, esatto, con una ricerca, rimessi lì, oltre al mobilio, invece ricostruito da Cucchi, la famosa poltrona con le rotelle di Darwin, pelle marrone, ecco, che addirittura lui ha invecchiato nelle zone, diciamo, di usura, quindi ricostruendo anche così con un po' di realismo quelle parti, e poi rispettando soprattutto i colori e i toni dello studio, per esempio la tappezzeria, l'archivio famoso di Darwin, che era molto meticoloso e quindi sistemava tutto, catalogava tutto in modo molto preciso. Ovviamente l'obiettivo non è, diciamo, quello feticistico soltanto di far vedere l'ambientazione il più simile possibile a quella originale. Volevo dare anche l'idea del metodo di lavoro suo, facendo vedere soprattutto gli strumenti, perché ho sempre trovato molto significativo che la teoria dell'evoluzione fosse nata in quello studio, perché tutto sommato è nata senza una strumentazione sofisticata come quella che noi immagineremmo. Certo, Darwin ha fatto un grandissimo lavoro di testa e di penna, insomma, ha pensato tantissimo. Ecco, ma adesso questo oggetto così prezioso, finita la mostra, cosa succede? Lo perdiamo? No, assolutamente. La nostra idea è quella di recuperare dalla mostra le parti che abbiamo prodotto appositamente, come questo studio, il modello del gliptodonte in scala reale, scala 1-1 anche quella, e tanti altri. Stiamo pensando a un concept nuovo per riunirli, quindi per dare loro una coerenza e creare una sottosezione della mostra, che sarà naturalmente molto diversa, da far circolare dopo il bicentenario, quindi non sarà più legata alla biografia di Darwin strettamente, ma alla teoria dell'evoluzione in generale. E l'idea poi sarebbe quella, una volta fatta girare ancora un po', di sistemarla invece in modo stabile in qualche parte d'Italia. Grazie Piovani. Grazie a voi. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Scoperte venute per caso, vi dicevo poco fa, ne parliamo ora. Ecco infatti da dove è venuta l'ispirazione per il quiz di oggi. Le scoperte casuali è stato il tema di una serata della rassegna Storia di Scienza tenutasi a Varese la scorsa settimana. L'ospite e relatore era Giulio Giorello e del tutto vi parla Maurizio Menis. Scienza e caso, scienza e fortuna, mettetela come volete, sta di fatto che la storia della scienza è piena di scoperte per caso. C'è anche un termine per definire questi casi in cui la fortuna gioca un ruolo decisivo, serendipity o serendipità in italiano, con riferimento ad un'antica favola persiana in cui tre principi di Serendipo, l'attuale Sri Lanka, uomini intelligenti ma un tantino ingenui, insomma, fanno una quantità di scoperte per puro caso. Ebbene, di serendipità si è parlato settimana scorsa durante una conferenza tenuta da Giulio Giorello, noto studioso di filosofia della scienza, che è intervenuto a Storie di Scienza, la rassegna varesina dedicata appunto alla storia della scienza. Giorello ha raccontato tanti casi di serendipità, dalla scoperta della penicillina a quella dell'America, tanti episodi strani e curiosi. Noi ne abbiamo scelti due che vogliamo farvi riascoltare dalla sua voce, a partire niente meno che dalla scoperta della radiazione di fondo, per cui Arno Penzias e Robert Wilson, che all'epoca lavoravano per la compagnia telefonica Bell, hanno preso niente poco di meno che il premio Nobel. Sentiamo. Penzias e Wilson erano pagati per eliminare in un impianto radiofonico tutte le perturbazioni e avevano scoperto che c'era un rumore di fondo che non si riuscì a eliminare, non erano perturbazioni artificiali, non erano nemmeno cause dovute a esseri viventi, eccetera, eccetera, ma loro hanno cominciato ad avere una scintilla di idee quando hanno visto che questo tipo di perturbazione era sostanzialmente omogenea in tutte le direzioni. E hanno scoperto quella che invece i fisici teorici stavano cercando senza trovarla, cioè la principale conferma della teoria del Big Bang. Per cui la radiazione scoperta da Penzias e Wilson non è altro che il residuo caldo, adesso è molto raffreddato, ma diciamo che quello che sia il residuo caldo, della grande esplosione originaria da cui sarebbe nato niente di meno che il nostro universo. Torniamo in studio e passiamo dall'universo ai parassiti, oggetti quindi molto più piccoli, quelli che negli anni 60 un certo Naipling cercava di eliminare dalle coltivazioni senza però fare uso di pesticidi. Naipling ha un'idea geniale: immettere nell'ambiente una gran quantità di maschi appartenenti alle specie infestanti che però sono stati precedentemente sterilizzati con delle radiazioni. Così facendo, pensa Naipling, gli insetti si accoppieranno, insomma soddisferanno i propri istinti, senza però dare origine a una discendenza. Naipling sceglie per il primo esperimento una particolare specie di mosca e, colpo di scena, funziona. Grande euforia, si parte subito a sperimentare il metodo con altri insetti. E questa volta però niente da fare, gli insetti prosperano alla grande. Cosa è successo? Sentiamo ancora dalla voce di Giulio Giorello. Qui c'è una doppia serendipità. La prima è che chi ha fatto il primo esperimento ha beccato una delle poche specie di insetti rigidamente monogama e quindi ha funzionato. Ma se invece la specie è piuttosto, diciamo, sessualmente disinvolta, voi potete sterilizzare tutti i maschi che volete. Siccome un certo numero di maschi si salva dalla sterilizzazione, questi si danno un'attività sessuale sfrenata, soddisfano una marea di femmine e la specie infestante si salva tranquillamente. La cosa sarebbe morta lì se non ci fosse stato negli anni 70 del secolo scorso un signore che si chiama Parker, il quale ha trovato i risultati di questi esperimenti senza successo serviti su un piatto e ha dato una spiegazione di perché non funzionavano e ha ricreato una teoria per la quale la poligamia è un mezzo evolutivamente molto migliore della monogamia se lo scopo è quello di perpetuare i propri geni. Scienza e caso, insomma, siamo partiti da questo, ma allora è vero, il caso è decisivo? Beh, insomma, sembra di poter trarre una conclusione da questi due episodi. Il caso può essere decisivo nel materializzare sotto il naso dello scienziato il dato imprevedibile, l'anomalia in attesa che spalanca le porte a una nuova scoperta. Ma ci vogliono intelligenza, perseveranza e spirito di osservazione per non lasciarsela scappare, cosa che chissà quante volte è successo senza che, evidentemente, ce ne siamo resi conto. Il premio Lagrange è arrivato alla seconda edizione. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il premio Lagrange è assegnato a ricercatori che operino nel campo dei sistemi complessi. E poi quest'anno abbiamo anche un premio speciale a un abile giornalista scientifico americano, Mark Buchanan, di cui parleremo fra poco e che ha scritto molte cose interessanti sulla scienza della complessità. Il premio del 2009 è stato assegnato a Giorgio Parisi, fisico teorico presso l'Università La Sapienza di Roma, uno dei nostri scienziati più validi e riconosciuti a livello mondiale. Parisi è in linea con noi. Buonasera, Parisi. Buonasera. Dunque, Parisi, lei ha dato molti contributi nel campo della fisica teorica, però da un certo numero di anni si interessa di sistemi complessi. Se leggo la motivazione molto accurata che la giuria ci fornisce per questo premio Lagrange che le è stato assegnato, io vedo che si citano contributi nel campo della scienza dei materiali, come in quello delle reti neurali che riguardano gli studi immunologici, oppure in aree della computer science. Le chiedo quindi, da una visione un po' superficiale, certamente, di queste motivazioni si potrebbe dedurne che la scienza delle complessità e i suoi strumenti, come dire, siano, per dirle in breve, molto fumo e poco arrosto. Io so perfettamente che non è così, però ci spieghi, Parisi, come mai questo strumento di conoscenza è tanto potente? Allora, questo strumento di conoscenza è essenzialmente uno sguardo diverso per interpretare il mondo. Cioè, ovviamente per uno sguardo da scienziato in cui uno è attento a un certo tipo di fenomeni, è attento a un certo tipo di connessioni, cerca di vedere cosa può esserci in comune, per esempio fra la struttura delle reti, fra la struttura delle che ci sono nei sistemi biologici, in sistemi sociali, insieme ai fisici come dei metalli a bassa temperatura, quindi cerca di vedere, di identificare certe strutture matematiche. E questa identificazione di strutture matematiche è qualcosa che può essere fatto in campi molto diversi. Per esempio, se uno pensa alla grande scoperta del fine del 1600, di utilizzare la matematica in fisica definendo velocità, accelerazioni e così via, questa è servita per descrivere i fenomeni più disparati non solo della fisica ma anche di altre scienze. Certo. E quindi quello che succede è che ci sono stati formati tutta una serie di strumenti matematici, ma strumenti concettuali dal punto di vista che sono fondamentali per certi tipi di interpretazione. E questi sono stati formati dai fisici non per necessità di comprendere dei sistemi della fisica, e poi a questo punto ci si è accorto che questi sistemi, che permettevano di studiare, di comprendere, analizzare dei sistemi complessi, avevano uno spazio di applicazioni estremamente più grande. Certo. Ovviamente queste applicazioni non possono essere fatte al vuoto, cioè non si può limitare, come a volte capita, dire il sistema è complesso, quindi è complicato, quindi è difficile dire qualche cosa e così via. Sono tecniche che richiedono in generale, per poter essere applicate sia alle reti neurali o altri al sistema immunitario e così via, e intanto una profonda conoscenza del problema che uno sta osservando con tutti i suoi risvolti. E quindi una certa umiltà nella sua applicazione, perché se no si incomincia a fare solamente fumo. E poi cercare di avere un occhio anche per l'analogia, cioè cercare di capire che cosa può essere utile di quello che abbiamo imparato in un sistema per capire un altro sistema e quali possono essere le connessioni a livello di descrizione o di metafora. Le chiedo una seconda cosa: la scienza dei sistemi complessi è relativamente recente. La sua sensazione è che siete agli inizi, cioè che ci possono essere nuovi grossi strumenti potenziali proprio per agire in questa direzione? Ma io penso di sì, perché da un lato quello che avviene sempre di più è che con l'uso dei moderni computer la quantità di dati che uno riesce ad accumulare sull'universo, sul mondo, sulla conoscenza umana, sulle proteine, su tutte le varie situazioni sta diventando enorme, e quindi servono anche dei nuovi strumenti per poter utilizzare tutte queste conoscenze. E molti di questi strumenti devono essere necessariamente basati sull'uso intelligente dei computer, e questo ci si sta muovendo molto lentamente, perché si tratta di fare delle scoperte concettuali in cui secondo me abbiamo incominciato a mettere le prime pietre, ma penso che sia un edificio che alla fine fra molti anni verrà bello grosso e solido. L'altro premio Lagrange è stato assegnato a Mark Buchanan, giornalista e saggista scientifico che si occupa da tempo di tematiche che hanno a che vedere con la complessità. Ha scritto di recente L'atomo sociale, pubblicato in Italia da Mondadori, un testo nel quale Buchanan realizza una serie di paralleli fra certi fenomeni che osserviamo in natura, per esempio i tanti modi di organizzarsi di una molecola come l'acqua, che è presente in forma liquida, solida nel ghiaccio e dispersa nell'aria come vapore, e certi comportamenti che si manifestano nella vita di noi umani. The other interesting thing is that there have been many economic studies that have looked to the biggest one day movement in the past. Qui lo sentiamo in una conferenza che ha tenuto in Texas, in un centro di ricerca a Palo Alto, nella quale ha parlato di questo libro, in particolare dei comportamenti che emergono nelle scelte economiche, quelle finanziarie, per esempio, quando un dato giorno un certo numero di persone, devono essere qualche migliaio, compie una stessa identica scelta, per esempio acquistare una tipologia di fondi. Questa scelta si diffonde e può determinare un evento molto intenso e rapido se si supera una certa soglia nel numero delle persone che tale scelta fanno, un po' come, ecco appunto la relazione, in alcuni fenomeni le cose cambiano improvvisamente, fenomeni naturali, dai liquidi si passa al vapore, come vi dicevo poco fa, superata una data temperatura. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz: il forno a microonde, oppure i più recenti depilatori per le gambe, oppure gli occhiali a lenti polarizzate. Queste erano le tre alternative. L'interrogativo era: quale di queste scoperte è venuta fuori per caso? Bene, in un giorno del 1946, Percy Spencer, un tecnico della Raytheon Corporation, era un'azienda americana che costruiva radar, stava provando un nuovo dispositivo, un componente aggiuntivo per la parabola di un radar, appunto. Decise di fare una breve sosta nel lavoro e si mise una mano in tasca per mangiarsi un cioccolatino che aveva portato da casa. Fra le mani si ritrovò una poltiglietta molle e il nuovo dispositivo metteva in funzione, quando andava, microonde, e quindi questa è la scoperta casuale che risolve il nostro quiz. I primi forni a microonde sperimentali erano molto costosi e quindi invendibili, si dovette aspettare della nuova elettronica per avere negli anni 70 i primi elettrodomestici. Lo so, sarebbe stato molto pericoloso per degli esserini a confronto come noi poggiati su due fragili gambe, però esserci stati allora, qualche decina di milioni di anni fa, quando c'erano tutti quegli animali grandi e di tutte le forme, beh, insomma, sarebbe stato molto bello. Non è andata così e dobbiamo accontentarci dei libri che raccontano quelle storie. Di uno appena uscito vi parla ora Barbara Galavotti. Dalle prime meduse ai dinosauri, dai giganteschi e quasi sconosciuti indricoteri, che erano mammiferi alti 5 metri alla spalla, ai minuscoli elefanti siciliani. La storia della vita si snoda per 4 miliardi di anni tra estinzioni e comparse di specie fantastiche. Insomma, è un crescendo di colpi di scena e la lentezza geologica con cui si sono svolti non li rende certo meno affascinanti. In effetti, però, di questi eventi sappiamo poco, e quello che sappiamo viene anche continuamente rimodellato da nuove scoperte. Persino gli organismi più amati e studiati del passato, cioè i dinosauri, ci riservano sorprese. La storia della vita viene raccontata in un piccolo libro di Raffaele Sardella, paleontologo all'Università La Sapienza. Il libro si chiama appunto Storia della vita sulla Terra, è pubblicato dal Mulino e Raffaele Sardella è qui con noi per accompagnarci in un breve viaggio sul nostro pianeta, saltando ovviamente nel tempo e nello spazio. Buonasera. Buonasera. Partiamo dagli animali antichi che più ci sono familiari, i dinosauri. Molti di noi li hanno visti nei musei, ma erano davvero così come sono rappresentati? Certo, rappresentare animali così particolari come i dinosauri, in particolare i più grandi tra loro, i sauropodi, quelli col collo lungo per intenderci, è sempre stata una sfida che ha riservato sorprese ma anche ha provocato errori. Per esempio il grande brontosauro che era allestito nel centro della sala del Museo di Storia Naturale di New York, che per anni è stato fotografato dai turisti ed era su tutti i libri di paleontologia, si è scoperto dopo quasi un secolo che in realtà era montato male, era frutto di un errore, e in particolare la testa di questo animale in realtà non era la sua ma era di un'altra forma molto simile ma ben distinta. E dopo 100 anni lo studio dei paleontologi ha messo in evidenza invece questo errore e oggi la testa dell'animale è completamente diversa e addirittura gli specialisti hanno dato anche un nome diverso a questo animale, Apatosaurus. Ma il nome Brontosauro è talmente popolare che comunque rimane ed è utilizzato lo stesso dai paleontologi. Anche sui colori si cambia un po', una volta i dinosauri erano tutti grigetti, adesso molto meno. Sì, diciamo che si sta sviluppando proprio un filone di lavoro di artisti che sono anche paleontologi al tempo stesso e, come dire, ricostruiscono le masse muscolari con le stesse tecnologie, le stesse tecniche, le metodologie di indagine dei criminologi e quindi riproducono animali che sembrano più vivi rispetto a prima e con colori che sono mutuati dagli uccelli attuali o dai rettili attuali. Ma comunque un margine alla fantasia c'è sempre, insomma, perché si tratta pur sempre di un'impresa artistica in fin dei conti, ma il margine di interpretazione diventa sempre minore. Lei ha citato il brontosauro è quella specie di bestione pesante 10 elefanti con un collo lunghissimo e una testa piccolissima. Come facevano a vivere, a esistere animali di quel tipo? Il brontosauro in effetti è l'icona tipica dei dinosauri dal collo lungo, diciamo era un animale che arrivava anche a 25 metri di lunghezza appunto, però riserva ancora tanti misteri la sua ricostruzione, proprio perché con una testa così piccola aveva un cervello anche molto piccolo, grande quanto il pugno di un uomo e che doveva gestire, diciamo così, un corpo appunto lunghissimo e molto pesante e probabilmente c'erano dei rigonfiamenti della spina lungo la spina dorsale, che servivano un po' da centraline e in particolare un grande rigonfiamento all'altezza dell'osso sacro per gestire gli arti posteriori e la coda. E la stessa cosa si può dire anche del tutto il complesso sistema del cuore e dei vasi sanguigni, che dovevano pompare appunto il sangue dalla testa alla punta della coda per oltre 20 metri. E quindi i paleobiologi, appunto coloro che cercano di ricostruire la fisiologia di questi animali, stanno cercando di mettere a punto dei modelli, ma c'è ancora tanto e c'è moltissimo ancora da capire rispetto alla fisiologia di questi animali. Quindi l'ipotesi è tanti cervelli e tanti cuori, in un certo senso. È sostanzialmente una sorta di rete, se vogliamo, che è un concetto molto moderno, ma che insomma, quando si tratta di organismi viventi, ecco, poteva funzionare in qualche modo per rendere possibile la vita di animali come questi, che oggi non esistono più e non esistono neanche degli animali simili, diciamo, neanche lontanamente da loro. Naturalmente i grandi rettili, i dinosauri, da loro siamo abituati, ma sono esistiti anche dei mammiferi veramente colossali che sono un po' delle cenerentole, nonostante siano più vicini a noi, più affini a noi umani, li conosciamo molto meno. Certo, per esempio tra questi vanno sicuramente ricordati degli immensi rinoceronti che arrivavano alla spalla a 5 metri di altezza con una testa che poteva sfiorare i 10 metri, che vivevano in quello che oggi è il Pakistan, nelle grandi pianure, e che potevano appunto rivaleggiare con alcuni dei dinosauri per dimensioni e per mole. Vivevano in gruppo e probabilmente i piccoli erano protetti dalla mole degli adulti, dei genitori, che li proteggevano dall'assalto di grandi predatori, grandi mammiferi carnivori o anche coccodrilli che popolavano l'area intorno a 35-40 milioni di anni fa. Beh, in effetti 10 metri sono in fondo 2-3 piani di casa, quindi effettivamente... Sì, animali terrestri poi comunque, quindi da considerare che la forza di gravità ha un suo effetto, insomma. Non sono solo gli animali giganteschi però a stupire i paleontologi, sono stati trovati anche degli animali insolitamente piccoli, in particolare in Sicilia. Certo, lì c'è una storia particolarmente affascinante perché mischia la scienza con la leggenda e la mitologia. Si tratta degli elefantini nani che sono vissuti circa 500.000 di anni fa in Sicilia. Ed è un fenomeno ben noto agli studiosi come endemismo, appunto nanismo insulare. In sintesi, diciamo, elefanti grandi 5 metri alla spalla, quando rimangono isolati in un territorio come quello che può essere l'isola appunto della Sicilia, nel corso di poche generazioni danno origine a una specie nuova, diciamo, di dimensioni ridotte. E il caso dell'Elephas falconeri, che è, come dire, ha nelle massime dimensioni quelle di un cane San Bernardo, insomma, una riduzione di taglia veramente drastica, veramente notevole. Però somigliava in tutto per tutto a un elefante. Era un elefante in miniatura. Al Museo di Paleontologia della Sapienza a Roma abbiamo la famiglia, diciamo, di questi elefantini ritrovati in una grotta di Spinagallo. Con le ossa ritrovate appunto in una caverna sono stati compilati, assemblati insieme lo scheletro di un adulto, di una giovane femmina e di due cuccioli di dimensioni diverse. Il più piccolo è veramente grande quanto un cagnolino, è veramente incredibile. Lei diceva che si intreccia scienza e mitologia su questo buffo elefantino? Sì, perché probabilmente all'origine del ritrovamento di questi grani nelle grotte della Sicilia, probabilmente appunto questi fossili hanno dato origine alla leggenda di Polifemo e dei Ciclopi, perché i crani di questi elefanti in miniatura comunque hanno delle dimensioni di un grande cranio umano con un foro al centro, che però non è l'unico occhio del gigante Polifemo, ma in realtà è l'apertura del naso e dove è inserita la proboscide. Grazie Raffaele Sardella, buonasera. Prego, buonasera. Il premio Presidente della Repubblica, che ad anni alterni viene consegnato a esponenti delle scienze umanistiche e invece poi appunto l'anno successivo a esponenti delle scienze, quelle in senso classico di cui ci interessiamo noi come trasmissione. Ho in linea questa sera Patrizia Caraveo. Buonasera Caraveo. Buonasera. Astronoma, ma sono indeciso se darle del lei come ricercatrice o del tu come collega, perché scrivi anche tantissimo di scienza sugli argomenti più diversi, in particolare anche sul Sole 24 Ore, quindi passo al tu. Però hai ricevuto un premio importante, questo della Presidenza della Repubblica, appena ricevuto, venerdì. Per che cosa, Patrizia? L'ho ricevuto per il lavoro fatto durante più di 20 anni per cercare di capire una strana sorgente di raggi gamma che è stata scoperta all'inizio degli anni 70 e per molto tempo non abbiamo saputo cosa fosse, tanto è vero che l'avevamo soprannominata Geminga, perché sì, era una sorgente gamma nella costellazione dei Gemelli, e quindi questa sorgente finalmente a metà degli anni 90 si è capito che era una stella di neutroni un po' capricciosa, che si comportava in un modo un pochino diverso da tutte le altre stelle di neutroni che gli astronomi studiano, grazie a diciamo questa sua capricciosità noi avevamo ipotizzato che in effetti fosse la capostipite di una nuova classe di stelle di neutroni, e un risultato è di questi ultimissimi mesi il satellite per astronomia gamma Fermi, un satellite della NASA nel quale l'Italia ha una fortissima partecipazione, ci ha dato ragione. Confermato. Sì, sono state trovate ben 16 nuove Geminghe, quindi Geminga ha una famiglia estesa di sorelle e cugine, più giovani, più vecchie, più vicine, più lontane, ma tutte con la stessa caratteristica essere capricciose. Senti Patrizia Caraveo, immagino che sarai contenta. Tra l'altro questo premio, insomma, bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo, non va frequentemente a donne. E quanti anni è che c'è questo premio del Presidente della Repubblica? Se non sbaglio c'è da 60 anni. E nel comunicato ho letto che è stato dato soltanto due volte? È stato dato solo due volte a donne, ma in questo nuovo millennio, diciamo, prima era sempre stato dato solo a scienziati maschietti, ma il primo che lo prese è uno scienziato che è particolarmente importante per noi astrofisici che facciamo l'astronomia gamma, perché ricevette il premio fu Beppo Chialini, che è il padre fondatore dell'astronomia X gamma in Italia. E tocca a me ricordare che Chialini è un Nobel che abbiamo perso, ma che dovevamo assolutamente avere, è stato dato al suo collega di lavoro e non a lui. Patrizia, ti ringrazio e bene, auguri, complimenti per questo premio. Grazie a te, ciao, buon lavoro. Quello che avevamo da dirvi per questa puntata ve l'abbiamo raccontato. Ricordo che se voi invece avete delle cose da dirci abbiamo il nostro indirizzo mail redazione@moebiusonline.eu. Vi ricordo anche che sia dal sito di Radio 24 che da www.moebiusonline.eu potete scaricare l'audio delle puntate. Dal sito di Moebius avete anche molti podcast dei singoli servizi. Buona serata e buona settimana a tutti e a tutte.